Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Dieci minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, settimana in cui il palinsesto di Radio 24, come vi hanno già ricordato i nostri conduttori, è in versione estiva, e che significa, come ogni anno, che anche il programma Focus Economia terminerà alle 18, poi riprenderà il palinsesto, diciamo, nella sua versione non estiva dal lunedì 31 agosto. Comunque, i temi di oggi che affronteremo, non c'è molta politica, politica economica intendo, perché si stanno facendo varie ipotesi, ma ne parleremo quando vi sarà maggiore concretezza sulla bicamerale o unicamerale. Adesso ripeto, rinviamo a quando vi sarà qualche notizia un po' più concreta. Invece di concreto oggi c'è di nuovo la corsa dell'oro. Già l'avevamo segnalata la settimana scorsa, ma oggi è toccato un nuovo record, $1,944 l'oncia, e ha aggiornato i massimi dal settembre del 2013. L'oro in questo momento è il termometro di un insieme di cose, perché non vi è solo la liquidità e i bassissimi rendimenti dei titoli di Stato, non c'è solo l'incertezza su quando e come evolverà, diciamo, questa pandemia, e quando sarà disponibile un vaccino, ma vi sono anche le tensioni tra Stati Uniti e Cina, per cui alla fine si conferma il vecchio detto dell'oro come assieme al mattone come bene rifugio, e mentre il petrolio è stabile a $41, l'oro va a $1,944 l'oncia. E di questo parleremo però anche di altri elementi. Da un lato, un dato: ci sarà l'appuntamento, l'ultimo, diciamo, prima della pausa, e poi torneremo il 31 agosto con Alessandro Platerotti con Dietro la Notizia. E c'è un dato molto interessante, ahimè, anche se farà arrabbiare più di uno, ossia qual è il numero dei fallimenti nei paesi dell'area euro, perché i fallimenti sono calati in molti paesi, non in Italia, e questo indirettamente starebbe anche a significare che i soldi sono arrivati meglio e in maniera più massiccia in altri paesi per il settore d'attività che non in Italia. Ma dicevo, parleremo di questo, faremo anche il punto sull'OPS di Intesa San Paolo su UbiBanca, perché è il caso del giorno. Oggi è la prima seduta in cui non si può più comprare azioni Ubi per poi portarle in adesione all'OPAS lanciata da Intesa, per cui il titolo si è sgonfiato nettamente. Non, chiaramente l'offerta era valida fino alla settimana scorsa, e la conseguenza è appunto che così l'appetito della borsa, diciamo, per questa operazione va a sgonfiarsi, e è molto debole soprattutto Ubi, anche se anche Intesa cede qualcosa, e ne parleremo, così come parleremo anche oltre che del record dell'oro, appunto, dell'operazione Intesa su Ubi, da un lato di quanto ha chiarito oggi la Cassa Depositi e Prestiti, ossia l'ingresso di Cassa Depositi e Prestiti e degli altri futuri soci in Autostrade per l'Italia non avverrà per gradi, come previsto inizialmente, ma sarà contestuale al collocamento in borsa di Autostrade per l'Italia. Adesso è Atlantia, la controllante, ad essere collocata in borsa. Tra l'altro segnalo che se appunto Ubi è il peggior titolo, -7,80, seguito da Telecom -5, Banco BPM -3,70, Leonardo -3,20, Poste -2,40, come A2A, Saipem -2,20 e Tenaris -2%, tra i migliori titoli troviamo di Assori in +5, e poi Atlantia +4,70%, poi Moncler +3, Italgas +2,20, Interpump +1,60, con un indice che cede complessivamente a Milano lo 0,18%, a Parigi lo 0,10%, Francoforte +0,30%, Londra -0,1%, Dow Jones +0,40%. Come sentite, sono borse, diciamo, in versione già estiva, poco mosse, con pochi spunti, tranne appunto l'oro, ma non c'entra col mercato azionario. Dicevo, parleremo di quanto previsto dal Memorandum of Understanding, sulla cui firma però non c'è ancora una data, è l'accordo preliminare, diciamo, nelle mani di di Atlantia. E da questo punto di vista, oltre che parlare appunto anche di Atlantia e del tema, attenzione, perché oggi il memorandum chiarisce, non è un dettaglio da poco, se l'ingresso di CDP entrerà per fasi oppure invece per in un'unica botta quando si quoterà in borsa la società. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24 e la diretta su Facebook. Allora, mentre sui casi di coronavirus l'OMS fa sapere che sono raddoppiati a livello mondiale nelle ultime 6 settimane, la Cina ha registrato domenica 61 nuovi casi, 4 importati, 57 di trasmissione domestica, è il dato peggiore dal 6 marzo, a Hong Kong è arrivato l'obbligo delle mascherine nei luoghi pubblici da mercoledì, perché il segretario dell'amministrazione ha detto che la situazione epidemica a Hong Kong è straordinariamente grave. E negli Stati Uniti si va sulla fase 3 di sperimentazione clinica sull'uomo del vaccino anti-Covid sviluppato dall'americana Moderna, mentre si sta andando avanti anche nelle altre sperimentazioni sui vaccini. Per quello che riguarda gli effetti del coronavirus, il Financial Times oggi esorta i politici europei a evitare un trionfalismo precoce. Anche se il livello dell'attività economica viene ripristinato, la struttura dell'economia europea può cambiare in modo permanente quando il lockdown presenterà il conto. Il rischio maggiore per la ripresa economica dell'Europa, dice il Financial Times, è un nuovo aumento incontrollato dei casi di coronavirus. Le restrizioni potrebbero essere più localizzate e mirate, ma l'economia europea non è distribuita uniformemente e blocchi nel nord Italia e in Catalogna potrebbero avere rischi per i rispettivi paesi, così come restrizioni a Londra, Parigi o in Baviera avrebbero effetti globali. Anche l'euro si è mosso oggi a 1,1778, eccolo qua, 1,1775. Siamo ai massimi da settembre del 2018. È migliorato l'indice ulteriormente, è migliorato nella fiducia delle imprese tedesche. A luglio è salito a 90 punti contro gli 86 di giugno. E questo è importante perché è il nostro primo mercato di esportazione, la Germania, soprattutto sulla meccanica industriale, meccanica di precisione. E invece la compagnia aerea a basso costo irlandese Ryanair ha chiuso il primo trimestre, quindi dell'anno fiscale, quindi il 20 giugno, con una perdita netta di 185 milioni. Per dare un raffronto, il primo trimestre dell'anno scorso si era chiuso con un utile di 243 milioni, quindi la differenza è di oltre 400 milioni di euro. Lo spread italiano nel frattempo resta stabile a 148 punti. Per quello che riguarda la scuola, quindi andiamo sulla parte scolastica, intanto annuncio che a partire proprio dal 31 agosto avremo un appuntamento ogni lunedì con Alessandro Milan, curato da Maria Piera Ceci, di approfondimento in vista della riapertura e poi una volta che saranno riaperte le scuole, per capire come ci si sta muovendo. Però allora, la bozza del protocollo d'intesa tra MIUR, Ministero e sindacati per garantire l'avvio dell'anno scolastico prevede svolgimento dei test sierologici per tutto il personale scolastico in concomitanza con l'inizio delle attività didattiche, test a campione per gli studenti con carenza periodica e criteri, però i criteri saranno di volontarietà di adesione al test, gratuità dello stesso per utenza, svolgimento dei test presso le strutture di medicina di base e non presso le istituzioni scolastiche, e poi l'individuazione di un medico competente per ogni istituto che effettui i servizi di sorveglianza sanitaria. Il ministro Azzolini ha detto la ripresa sarà il 14 settembre. Voglio tranquillizzare tutti quelli che hanno manifestato perplessità, c'è stato un lavoro enorme con gli enti locali anche sugli spazi, il mio compito sarà dare ovviamente più organico alla Toscana così come anche alle altre regioni che lo hanno chiesto. Questo è il termine del tavolo regionale per la ripresa a settembre. Sentiamo un passaggio della Zolina. C'è stato un lavoro enorme che gli enti locali hanno fatto sugli spazi. Il mio compito sarà dare ovviamente più organico alla Toscana, così come anche alle altre regioni che lo hanno chiesto. Nel momento in cui si stabilisce con il comitato tecnico scientifico che deve essere mantenuto un metro di distanziamento, noi a quel metro di distanziamento dovevamo dare una risposta con spazi nuovi, facendo degli interventi di edilizia scolastica leggera all'interno degli spazi scolastici che già abbiamo. E stamattina gli enti locali ci hanno spiegato che hanno sia sollevato, non so, pareti di cartongesso, tutto quello che può servire, in più l'organico. E poi segnalo quanto ha dichiarato Alberto Dal Poz, presidente di Federmeccanica, margine dell'Assemblea dei Metalmeccanici di Confindustria Val d'Aosta. Ha detto: attenzione, riguardo l'ipotizzato stop ai licenziamenti che il governo sta studiando nella manovra di agosto, e quindi ai blocchi di qualunque tipo, attenzione, perché Federmeccanica teme che le limitazioni possano creare maggiori difficoltà alle imprese italiane, soprattutto quando sono in qualche modo parte di multinazionali. E poi ha aggiunto invece sul rinnovo del contratto nazionale: la mia e la nostra volontà è quella di fare il contratto. Arriva un altro dato sul mondo delle imprese, questa volta però da Unioncamere, perché anche la demografia delle imprese risente della pandemia, e ahimè ne risente di più se alla guida c'è una donna. Nel secondo trimestre, tra aprile e luglio, sono nate 10.600 imprese guidate da donne in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno prima. Un calo del 42%, che è superiore al numero di imprese guidate da un uomo, meno 35%. Oh, poi c'è la preoccupazione della Coldiretti, perché il 26 luglio scade l'ultimatum del presidente degli Stati Uniti Trump per l'applicazione di nuovi dazi a una lista di prodotti europei che per l'Italia riguarda un valore dell'export di 3 miliardi, perché c'è dentro anche il vino, l'olio, la pasta made in Italy. L'allarme lo lancia la Coldiretti, ricorderete era il secondo round dei dazi, vicenda Airbus. Noi abbiamo esportato quasi 5 miliardi di euro di agroalimentare l'anno scorso, con un aumento del 10% nel primo quadrimestre, nonostante l'emergenza del coronavirus. Il vino da solo è il prodotto più venduto italiano negli Stati Uniti, 1,5 miliardi di valore di esportazioni. Olio d'oliva segue con 420 milioni, la pasta con 350 milioni di euro. E staremo a vedere, speriamo che non vi sia però una ripresa dei dazi da parte degli Stati Uniti. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Allora, manca oggi, non è che sia una grande mancanza, diciamo, il tema è il dibattito politico, che ancora è concentrato su come organizzare la task force, la cabina di regia. C'è un'ipotesi di due commissioni, una per Camera, una delle quali da affidare all'opposizione. Ho visto circolare il nome di Brunetta, l'ex ministro Brunetta, però insomma, quando avremo maggiori dettagli li commenteremo. Per ora quello che è emerso invece su un'altra vicenda che ha tenuto impegnato il governo moltissimo, mi riferisco alla vicenda Autostrade per l'Italia, è che l'ingresso della CDP sarà un ingresso ai prezzi dell'offerta pubblica di collocamento, e sarà un ingresso contestuale alla quotazione in borsa di Autostrade per l'Italia. Allora, a me la buona notizia, e lo dico senza battute, sembra il fatto che in questo modo l'operazione di ingresso di un capitale pubblico della CDP, che però per legge e per statuto è un operatore di mercato, quindi è il Consiglio di Amministrazione che certifica che le operazioni abbiano le caratteristiche di autonomia nella scelta degli investimenti, è vincolata per legge, per statuto, ma dicevo, a me la buona notizia sembra che comunque l'intera operazione sarà un'operazione totalmente di mercato. Qualcuno infatti aveva temuto una statalizzazione di Autostrade per l'Italia, e sappiamo che insomma i soldi non è che la partecipazione dello Stato garantisca di per se stessa maggiore efficienza, pensiamo delle volte all'ANAS, però soprattutto che non fossero soldi dati a modi di vecchie IRI. Da quello che ho capito non sarà così, ma chiedo conferma a Maurizio Caprino del Sole 24 Ore. Buonasera Maurizio. Buonasera a tutti, eccomi qui. Dunque, in realtà non possiamo ancora garantire... È il memorandum, hai ragione. No, ma soprattutto ci possono essere delle ulteriori poste poi nascoste nelle pieghe di una qualche futura legge, qualche futuro decreto legge. Perché in sostanza, allora, che l'accordo, come era stato descritto nelle settimane scorse, non fosse così di ferro, lo avevamo intuito già giovedì scorso, tant'è che sul Sole di venerdì eravamo usciti con questa procedura aperta di contestazione, aperta quindi all'apparenza inspiegabilmente, dal Ministero delle Infrastrutture contro Autostrade dell'Italia sulla storia delle gallerie liguri. Contemporaneamente, avevamo in pagina anche questo, Cassa Depositi e Prestiti aveva sollevato dubbi sul fatto che l'investimento in Autostrade per l'Italia potesse avere un senso, visto che si parlava di tirare fuori dei soldi anche per sistemare una rete messa male, e contemporaneamente, almeno per quello che aveva annunciato il governo, tagliare le tariffe, quindi una cosa che era tutto fuorché di mercato. Adesso si torna al mercato, però qual è il timore? Il timore è che ci sia poi la mano dello Stato nel finanziare determinate operazioni, come appunto la rimessa in sesto della rete. Qualche schermaglia appunto si è vista già giovedì scorso, quando Aspi ha ribattuto alla notizia che abbiamo dato noi proprio sull'apertura di questa contestazione. Stavolta Aspi è stata molto meno arrendevole, stavolta ha ribattuto a muso duro, quindi era il segno che c'era sicuramente un'interlocuzione, quantomeno a distanza tra le parti, sicuramente un'interlocuzione conflittuale. Ricordiamo che la rete ha bisogno di 20 miliardi per essere rimessa a posto. La possibilità quindi è che lo Stato faccia, in maniera non tanto dissimile da quello che ha fatto nel decreto rilancio, con un emendamento al decreto rilancio, con strada dei parchi, le autostrade che collegano Roma e Abruzzo, lì ha chiuso un contenzioso pluriannuale con Toto, stanziando dei soldi per la messa in sicurezza sismica. Solo che mentre la messa in sicurezza sismica era un qualcosa che aveva una giustificazione anche a livello europeo, perché oggettivamente c'era un imprevisto, qui invece siamo nell'ambito di una rete lasciata andare al degrado, non si sa se più per colpa di chi la gestiva o più per colpa del mancato controllo dello Stato su chi la gestiva. No, Dio, aspetta, tu sai che su questo io sono molto netto. Allora, se tu lasci una rete andare al degrado è comunque colpa di chi la gestisce, poi c'è una responsabilità anche dello Stato non aver controllato come non venivano fatti i lavori dal concessionario, che nel frattempo intascava le tariffe dei pedaggi autostradali, dicendo sulla base di investimenti fatti, investimenti futuri. Per cui, diciamo, se tu non fai quello per cui hai preso un contratto, è comunque colpa tua. Poi c'è anche il fatto che lo Stato si è distratto o non ha controllato come avrebbe dovuto, ma questo non può essere, diciamo, una giustificazione per non fare gli investimenti, ecco, visto che tu prendevi i pedaggi e la gestione su questo. Assolutamente non lo è, però sicuramente è argomento di contrattazione tra le parti, per cui non è escluso, siccome non decidiamo né io né no, te, certo, non è escluso che venga deciso in qualche modo di sanare questa partita, che in termini infrastrutturali sta proprio di default, è un default alla greca, non c'è dubbio, anche se dobbiamo metterci altri 20 miliardi sul resto della rete, non ASPI e poi ANAS, la rete ANAS attualmente è non pervenuta, quindi noi siamo in una situazione di default, e quindi lo Stato in qualche modo probabilmente dovrà metter mano, anche perché ricordiamoci che qui si tratta, a parte CDP che è un investitore che dovrebbe dovrebbe comportarsi da privato, ma è comunque nell'orbita statale. Qui stiamo parlando di un'operazione, questa di ASPI, in cui dovrebbero entrare altri investitori, anche esteri, del tutto privati. E per entrare in un mercato come quello autostradale, un investitore ha bisogno di determinate garanzie, perché è uno che ci mette poi tanti soldi. Ecco. A maggior ragione se lo quoti. Scusami, è alla luce di questo che tu ti spieghi il rialzo forte di Atlantia oggi? Atlantia ancora ha l'88% al momento di Autostrade per l'Italia, e a sua volta il socio forte di Atlantia è la famiglia Benetton, con sintonia con il 30%. È alla luce assolutamente di questo, poi però ovviamente non mi aspetto che la partita finisca esattamente qui, per cui staremo a vedere cosa succede nei prossimi giorni. Ecco, mi chiedono molti ascoltatori, ma a questo punto gli investimenti famosi, i soldi che l'attuale amministratore delegato di Autostrade per l'Italia aveva detto che i 20 miliardi di investimenti, li farà la nuova ASPI? Sicuramente sì, ma allora no, lui parlava di 14 miliardi di investimenti, sì. E sono 14 miliardi che servono per realizzare le nuove opere che sono state già decise da anni, vedi la Gronda di Genova. Invece quello che manca proprio dai radar, perché non ne parla nessuno, sono questi 20 miliardi in manutenzioni impreviste, chiamiamole così. È proprio lì che si gioca la partita, e sicuramente tutti gli investitori stanno facendo i conti con questo, perché lo sanno benissimo. Grazie, è una partita appunto, e ne abbiamo commentato solo, diciamo, una parte, è tutt'altro che chiusa. Grazie intanto anche a Maurizio Caprino. Adesso andiamo sul meteo e poi invece passiamo alla parte, diciamo, delle imprese italiane, andando a guardare cosa capita ai fallimenti non solo delle imprese italiane ma anche di quelle europee. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Focus Economia. minuti. Abbiamo raccontato in questi mesi delle iniziative del governo, dal bonus autonomi 600 euro, poi portati a 1000, il fondo perduto, ma anche i prestiti garantiti alle imprese, distinguendo, e la cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga, distinguendo tra l'efficacia dei vari provvedimenti. Il fondo perduto ha avuto un'efficacia in termini di tempo proprio molto alta, diverso il caso del bonus autonomi 600 euro, soprattutto nell'avvio, e anche qualcuno ci segnala ancora su quello di maggio, e la cassa integrazione che è stata che ha funzionato soprattutto nella parte ordinaria e straordinaria, molte difficoltà ha avuto quella in deroga per via delle regioni e quant'altro, e così come delle banche che all'inizio hanno avuto più lentezza e con trattamenti molto diversi da banca a banca, adesso onestamente anche col piccolo osservatorio e termometro di Focus Economia, quindi i messaggi che mandate, le mail che scrivete, mi sembra anche che sul fronte dei prestiti garantiti dalle banche, perlomeno quelli sui 30.000 euro, a noi arrivano molto e molto meno segnalazioni. Perché lo dico? Perché lo sforzo è stato grosso, l'ultimo scostamento di bilancio che verrà approvato sono altri 25 miliardi, quindi in tutto saranno 100 miliardi di scostamento rispetto a quello che prevedeva di fare lo Stato prima del Covid. Faccio notare che stiamo parlando di quattro manovre finanziarie da questo punto di vista e di 8 punti un po' meno di PIL, ma soprattutto l'ammontare di 4 anni di manovre che si è scaricato tra marzo, aprile, maggio e giugno. Faccio questa premessa per dire che sicuramente lo stanziamento c'è stato. Poi però quello che conta nella vita e soprattutto nella vita di impresa sono i tempi con cui questi soldi arrivano. Vedo che il governo sta pensando di prorogare il bonus autonomi per alcuni settori più penalizzati, turismo e spettacoli, però ce ne occupiamo nell'ultimo appuntamento di Dietro la Notizia, non perché poi lo chiudiamo, ma perché c'è la pausa estiva e tornerà col palinsesto del prossimo di lunedì 31 agosto, e quindi andiamo a capire quanto poi in maniera indiretta questo incida sulla vita delle imprese, dati europei alla mano. Dietro la notizia. E allora saluto Alessandro Platerotti, editorialista del Sole 24 Ore. Buonasera Alessandro. Buonasera a te Sebastiano e a tutti gli ascoltatori. E poi risentiremo dal 31 agosto. Alessandro, tu hai, se ho ben capito, hai per questo appuntamento di Dietro la Notizia, hai preso in mano i dati dei fallimenti di vari paesi europei, confrontandoli con quelli italiani. Che cosa hai scoperto? Quello che tu e che noi stiamo dicendo da tempo, ovvero che la differenza nella ripresa la fa la velocità con cui vengono erogati e i finanziamenti e gli aiuti di Stato, e soprattutto le misure attive a sostenere l'impresa. Perché lo dico? Perché nei dati nuovi, io ho preso a confronto i dati della Francia, della Spagna, della Gran Bretagna e della Germania, secondo trimestre del 2020, quindi stiamo parlando di dati a fine giugno di quest'anno. Beh, le sorprese sono grosse. Addirittura vediamo che in Spagna, che è stato un paese colpito come il nostro, ma dove il governo ha reagito immediatamente con gli stanziamenti, addirittura in questi ultimi, negli ultimi tre mesi, nel secondo trimestre, il calo dei fallimenti registrati è addirittura del 60% rispetto allo stesso periodo del 2019. Cioè sono fallite nel secondo trimestre il 60% di imprese in meno in Spagna? In meno, ma non solo lì, cioè, i dati parlano più o meno dello stesso quadro molto diffuso. In Germania le dichiarazioni di insolvenza ufficiali dichiarate nel solo mese di aprile sono scese del 13%, meno 30% misurato a fine giugno. In Francia meno 19% dal 2019, e questo vale soltanto per il mese di giugno. Cioè più ci stiamo entriamo nella fase ultima dell'emergenza, più da noi vediamo un aumento dei fallimenti, tant'è vero che i dati di Confindustria, che erano relativi al primo trimestre, che parlavano di circa 15.000 imprese che rischiavano il fallimento, si sono aggiunti gli ultimi aggiornamenti che parlano a fine giugno, siamo già a più 35.000 nel numero dei fallimenti di ditte e individuali e collettive. Allora, questo lo dico perché chi mi stava già dicendo sta facendo il portavoce di Casalino. Guardi, Casalino mi sembra che abbia altri problemi, il portavoce è difficile farlo, sarebbe un meta portavoce. Perché avevo ricordato le misure del governo. Se lei avesse avuto tutto il tempo ad ascoltare, capiva che saremmo arrivati anche alla parte critica, però delle volte scatta prima la tastiera che le sinapsi. Allora, la parte critica è perché ovviamente noi non possiamo immaginare che né in Spagna né in Francia o in Germania le imprese siano fallite di meno perché il mercato andava bene, il lockdown l'hanno avuto anche lì. Allora, quindi, assolutamente. Di che si tratta? Ecco. Si tratta dell'allocazione delle risorse, primo, perché sono andati immediatamente ai settori più esposti al rischio, ovvero turismo, compagnie e trasporti, cosa che è stata la prima cosa corretta in Spagna. Questo adesso faccio l'esempio della Spagna, ma potrei parlare anche della Francia, dove Air France non è andata in crisi, ma Airbus è stata la prima ad essere ricapitalizzata insieme a tutto il settore dell'aerospazio francese. Cioè, quello che voglio dire è che il nostro governo è bravo a promettere o a fare gli scostamenti di bilancio, ma se continuiamo a fare gli scostamenti esclusivamente per finanziare la cassa integrazione, è ovvio che il numero dei fallimenti è destinato ad aumentare per quelle imprese che sa che da sole non riescono a stare sul mercato, ma a causa del Covid, perché la differenza la sta facendo tutta lì. Sì, e tra l'altro devo dire una cosa, che abbiamo avuto ospite Giovanni Tamburi venerdì scorso, io sono d'accordissimo con Tamburi, noi sul turismo come settore specifico, nel senso che è vero che le misure per i bonus e la cassa integrazione valgono anche per il turismo, così come il fondo perduto e i prestiti, ma sappiamo tutti che il turismo, e andando ad analizzare bene i dettagli, ho chiesto per favore, bisognerà entrare nei dettagli e chiedere i fatturati, visto che in parte della stagione è in corso, ci sono imprese turistiche che stanno tutto sommando tenendo nelle zone costiere del paese e stanno vedendo anche in fine settimana, ma non solo, flussi consistenti di turisti italiani, in qualche modo stranieri, ci sono imprese turistiche che sono ancora in ginocchio nei centri storici dove mancano i turisti e nei centri urbani dove mancano i lavoratori perché sono in smart working. Allora lì dovrai andare a fare delle iniezioni dirette col turismo, vale anche per il mondo del crocieristico navale, per il mondo del catering, cioè non fare di tutta un'erba un fascio e quindi non dare soldi a pioggia, ma darne parecchi anche a fondo perduto per chi in realtà è ancora piegato dall'effetto del Covid, perché lo smart working è un effetto del Covid, e l'assenza di turisti nei centri storici, soprattutto turisti, diciamo, big, che spendevano, no? Penso a Venezia, penso a Capri, penso a Roma, Firenze, e andiamo avanti, è un problema del Covid se ti bloccano le frontiere o se li bloccano le frontiere. Quindi in quei casi dovrai andare con iniezioni di soldi a quasi a fondo perduto e massiccio, magari lasciando stare altri settori. Voglio dire, tutto il mondo del pubblico impiego, tutto il mondo del privato che è ripartito, anche della manifattura, magari riesce a camminare con le sue gambe. Certo che porterà a casa un anno di calo, ma è una cosa diversa un anno di calo e quando, o essere ancora chiusi sostanzialmente a luglio, quasi agosto, Alessandro. Esatto, e soprattutto, io, questo bisogna rimarcarlo, in questo momento il turismo italiano, l'industria del turismo italiano sta vivendo sui turisti italiani. Purtroppo lo sta facendo anche con tutto che era un insieme di sistema dei prezzi, che era molto più tarato sui turisti stranieri che su quelli italiani, quindi c'è un po' un deterrente di spesa che bisogna ammetterlo, esiste, perché questo è. Ma il punto è questo, è un terzo della stagione. Quella che per molte zone era una stagione che durava 2 mesi e mezzo, 3, adesso dura 1 mese o poco più, e qui non c'è un indennizzo dello Stato. Un ultimo punto che bisogna tenere presente in questo discorso è il contante. Questo è un dibattito che sarà destinato a riaccendersi a settembre. Perché? Perché gran parte delle imprese del turismo vivono dei contanti, e naturalmente la politica contro i contanti le sta, e bisogna ammetterlo in questo senso, danneggiando 2 volte. Sì, sui contanti io poi ho fatto una battaglia mia su questo, quindi io ritengo che poi sul contante si debba ridurre. Certo, però no, ma quello, il punto è di metodo, cioè all'inizio eravamo tutti uguali, tutti o quasi tutti, perché il 48% delle imprese manifatturiere sono rimaste aperte anche durante il lockdown. Certo. Adesso devi andare, la cosa più difficile, perché occorre andare nei dettagli, continuerò a dirlo fino allo sfinimento, non trattare tutto il mondo del turismo nello stesso modo. Non trattare tutto il mondo, diciamo, dei servizi, allo stesso modo, andare a vedere nel dettaglio, farti portare i fatturati, uno che certifica col fatturato, che è ancora sotto, poniamo la soglia del 33, come abbiamo fatto per l'aiuto a fondo perduto, del 33%, finita la stagione, va aiutato, mentre qualcun altro sarà sotto del 10, del 20, magari proprio grazie al cosiddetto turismo di prossimità fatto dagli italiani. Comunque, buone vacanze anche a Alessandro Praterotti, che risentiremo il 31. Lunedì 31 agosto, adesso andiamo sulla borsa. Se qualcuno mi dice, me l'hanno scritto più volte dipendenti delle banche, guardate che i 600 euro sono andati anche a persone che avevano importanti conti correnti e patrimoni, lo so. Ma lì stavamo lì possiamo dare la scusa della velocità, cioè si era a marzo, provvedimento di emergenza, così. Adesso, per non fare un doppio torto, cioè premiare chi non ne ha bisogno, aiutare chi non ne ha bisogno o ne ha poco bisogno, e invece dare poco a chi ne avrebbe molto bisogno, ripeto, bisogna entrare nei dettagli, conoscere i dossier, è la cosa che più mi spaventa in questo momento, per uscire il più possibile dall'assistenzialismo e invece dare la possibilità di sopravvivere a chi ha avuto un problema non di gestione del ristorante, dell'albergo, della società, ma ha avuto un effetto Covid. Quindi se tu riesci a farlo, a tenerlo in vita, poi ce la fa con le sue gambe. L'assistenzialismo è una cosa diversa. In questo momento dare a tutti quelli, dare soldi in maniera, diciamo, da questo punto di vista, solo sulla base, diciamo, del mancato reddito. Qui bisogna tenere in vita, perché si tiene in vita quelle imprese, poi queste imprese saranno quelle che riassumeranno, e combattere il nero. Vedo che molti mi scrivono, ma guardi che nel settore alberghiero, nel turismo, nei bar c'è un grosso tasso di nero. Va bene, ma se tu devi fare richiesta per degli aiuti, è chiaro che il nero ti viene contro, quindi come nel caso del 33% di fatturato, se tu dichiari meno di quello che è il tuo vero fatturato, anche il calcolo sugli aiuti in qualche modo ti penalizza. Per cui, e comunque chi chiede questi aiuti, per esempio, lo fa l'Agenzia delle Entrate, quindi poi deve stare attento. Abbiamo visto anche dei casi di società fittizie create ad hoc dalla criminalità, beccate dall'Agenzia delle Entrate. Comunque andiamo a un rapido commento sulla borsa, solo per commentare con Enrico Mieli di Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera Enrico. Buonasera a te e agli ascoltatori. La vicenda Intesa San Paolo Ubi Banca, perché Intesa perde lo 0,77, Ubi però perde l'8,82%. Va detto che oggi era la prima seduta in cui non si poteva più comprare, non si potevano più comprare azioni Ubi e per poi portarle a Intesa, che prevede nell'offerta 1,7 azioni di Intesa ogni azione Ubi più una parte in contanti di 57 centesimi. È domani che si conclude il periodo di adesione, giusto? Esatto, esatto. Come anticipavi tu, il titolo di Ubi si è sgonfiato per quella che molti hanno definito una ragione di carattere tecnico. Appunto, le azioni acquistate oggi non potevano essere portate in adesione all'OPAS di Intesa, ma secondo quanto dicono gli operatori, questo darebbe il segnale sul fatto che in realtà i giochi sono fatti nella partita dell'offerta pubblica e adesso servirà l'ultimo step, servirà la conta delle nuove adesioni tra stasera e domani sera per vederne l'esito definitivo. Perché allora Intesa punta ad avere almeno il 51%, ma in realtà vorrebbe avere i 2/3 per poi avere il diritto di convocare l'assemblea straordinaria. A venerdì erano il 32,6%, no? Le azioni portate, diciamo, azioni Ubi portate a Intesa. Esatto, sì, anche se molti sono convinti che diciamo chi detiene pacchetti importanti di azioni si muoverà sul finire si è mosso sul finire del timing nelle scorse ore, quindi poi in realtà quando i conti saranno completati, insomma, si arriverà a un'adesione importante, almeno questo era quello che girava oggi nelle sale operative. Comunque, come anticipavi tu, il tetto raggiunto da Intesa è determinante perché si vedrà se poi Intesa avrà il controllo dell'assemblea straordinaria per approvare la fusione, la vendita, esatto, delle filiali, oppure se tutto, insomma, sarà una partita più aperta. Come sì, non è neutrale. Non è neutrale questo elemento, perché un conto è avere 52 e un conto è avere vicino a 70 e poter convocare l'assemblea straordinaria. Quando è che si sapranno esattamente le quote portate, quanta parte di azioni Ubi sono andate a Intesa? Ah, in realtà domani sera, insomma, è tempo di fare i conti, ovviamente a mercati chiusi, e poi si avrà insomma il segnale di come la partita si è conclusa. Staremo a vedere, è una partita importantissima per quello che si chiama risico bancario. Per il resto segnalo appunto che sul mercato Telecom perde il 5, BPM 3,70, Leonardo meno 3,5, Poste meno 2,50, Bene di Assori in più 5, Atlantia più 4,80, Moncler più 2,30, Tagas più 2%, Telecom, Enrico. Sì, per Telecom è stata una seduta difficile, è stata toccata dalle vendite e è arrivata la chiusura a meno 5. Che cosa ha scontato? TIM, che ricordiamo non ha ancora dato i numeri della trimestrale, che quindi fotografano esattamente qual è stato l'impatto del lockdown e del Covid sui conti di quella che è la prima TLC del nostro paese, sono stati i conti, cosa ha pesato su TIM? Appunto, sono stati i conti degli altri operatori, dei suoi concorrenti. Ad esempio quelli di Vodafone hanno mostrato un impatto importante, ad esempio sul roaming, che è un elemento molto legato a quelle che sono le attività commerciali, i viaggi, diciamo la mobilità di noi europei, e quindi questo impatto importante sui conti di Vodafone fa dire a molti osservatori che anche per Telecom, insomma, sarà un trimestre perlomeno difficile. Allora, grazie anche a Enrico Mieri, Radio Corriere sulle 24 ore. Andiamo sull'ultimo tema di approfondimento, visto che la puntata da oggi, appunto per tutto il mese di agosto, poi terminerà alle 18, e mi riferisco a un record in qualche modo atteso, quello dell'oro, che ha toccato con un rally che ha oscurato tutti i rally degli anni scorsi. Le quotazioni del metallo prezioso hanno toccato sostanzialmente quanto messo a segno nel settembre 2011, cioè 1920 dollari, sfiorando quota 1944 dollari. E segnalo che anche l'argento ha toccato è salito a 24,39 dollari l'oncia, più 7% ai massimi anche qui da settembre del 2013. Roberto Binetti, presidente di Cofinvest, che appunto è market leader di oro fisico da investimento. Buonasera. Dottor Barisena, buonasera a tutti. Oro e argento, allora l'analisi sembra molto semplice: nel momento in cui i rendimenti ai titoli di Stato sono tenuti ai minimi, a zero, dalle operazioni delle banche centrali, in cui sì, il mercato sta andando, lo abbiamo detto molte volte, anche in maniera quasi divergente rispetto alle previsioni sull'economia, ci sono tensioni internazionali che si sono riaperte tra Stati Uniti e Cina, ammesso che si siano mai chiuse, preoccupazioni sulle ondate o già in corso le seconde ondate di Covid. Insomma, è chiaro che il bene rifugio assieme alla casa per eccellenza è l'oro. È questo lo scenario alla fine? Dottore, sì, ha ragione. Sicuramente il fattore del calo del dollaro, la tensione politica tra Stati Uniti e Cina, il clima di incertezza per l'emergenza Covid, problematiche sulle prospettive di una ripresa economica americana non certo positiva. E l'oro si riprende lo stato di bene rifugio per eccellenza, una copertura su inflazione, debolezza delle valute. Già a settembre potrebbe sfondare i 2.000 dollari l'oncia e risalire anche nel 2021. Dall'inizio dell'anno ha guadagnato il 28%, l'indice MOB il 21%. Ecco, però Binetti, visto che c'è un legame così forte con la situazione, diciamo, dell'economia internazionale, se invece la ripresa dovesse essere un po' più robusta e soprattutto dovessero arrivare, uso 20.000 condizionali, i vaccini o il vaccino, addirittura c'è chi dice per gennaio, cioè vi potesse essere a questo punto una maggior fiducia nel futuro, lei immagina contestualmente invece un calo del prezzo dell'oro? Ma speriamo che queste cose si avverino veramente per una questione mondiale, economica e finanziaria. Ma noi non riteniamo impossibile che scenda l'oro sotto questi valori. Insomma. Dottore, se lei si ricorda, nel 2013, al massimo delle quotazioni dell'oro, la Fed, la banca centrale americana, vendette 400 tonnellate d'oro improvvisamente un pomeriggio 12 aprile e l'oro perse un terzo delle quotazioni. Non potrà più succedere perché adesso le banche centrali di fatto sono diventate delle tipografie, continuano a stampare carta e pertanto hanno sempre necessità di oro fisico a garanzia, continuano ad acquistare oro come hanno acquistato negli ultimi anni, Russia, Turchia, America, cioè non ci sarà questa, secondo noi non ci sarà questa problematica di ridiscesa del, allora, e questo vale anche per l'argento. Mi chiede un ascoltatore se c'è anche la mirra. No, la mirra era oro, incenso e mirra. No, però l'argento sì, anche l'argento è tornato dai massimi dal settembre del 2013. Sì, però l'argento per noi in Italia è poco speculativo perché l'argento è gravato da IVA, pertanto non è uno strumento di investimento. Ma vedo, dottore, noi siamo come Confive, siamo molto sotto pressione in questo momento, un po' perché godiamo di una visibilità importante, perché l'anno scorso, il 1 agosto, ci siamo quotati in borsa. Il titolo è partito 1,4, siamo a 5, adesso abbiamo molte richieste di forme di investimento, ma anche offerte di materiale auro, perché molti possessori di oro e lingotti utilizzano e sfruttano questa occasione per avere degli ottimi risultati economici. Però siamo sicuramente sotto pressione in questo periodo, speriamo che continuino, glielo nego, insomma è una grande soddisfazione per noi, perché questo tipo di attività l'abbiamo, si può dire, fondata e costituita e inventata negli anni 1980. Adesso stiamo un po' godendo i frutti di tutto questo grande impegno che ci abbiamo sempre messo, non glielo nego. Allora, grazie intanto e vediamo appunto come andranno le quotazioni anche dell'oro da questo punto di vista. Vedo molti messaggi, alcuni li voglio citare, di persone, visto che parlavo delle iniziative del governo, mi scrive il padre di un ragazzo disabile che fa il caregiver, che ha ricevuto, è stato a casa dal lavoro e ha ricevuto 600 euro al mese in meno. Mentre la badante è stata pagata e ha avuto un premio dall'INPS di 500 euro al mese per 2 mesi. Allora io adesso ricordo anche delle iniziative per i caregiver e per chi aiuta appunto parenti in condizioni di disabilità. Fate bene a segnalatele, le ricorderemo sempre. Ripeto, adesso al di là della, io spero non ci infiliamo in un'altra villa d'ora Panfili. al di là della bicamerale, camerale, non camerale, ma ne parleremo domani, la cosa importante è che poi i tecnici dei ministeri vadano nello stradettaglio, parlino con le categorie, parlino con gli enti locali e le categorie degli enti locali. È chiaro che alcune, non tutte le regioni sono uguali, alcune regioni si stanno sollevando un po' meglio, parlo del turismo ma non solo di altre, però è noioso, è meglio fare cose molto più ampie e altisonanti, però poi è così che si risolvono i problemi, entrando nei dettagli, quello che gli inglesi chiamano fine tuning, quindi la precisione e l'affinamento e non l'enunciazione generica. Torneremo a parlare domani, intanto da Sebastiano Barisoni l'auguro di una buona serata.